La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, in questo lunedì 3 di ottobre, 16.31 primi, 17 secondi in diretta qui dagli studi di Milano. Oscar Giannino vi saluta, vi ringrazia, vi ricorda l'indirizzo versione di Oscar chiocciola radio24.it, la versione di Oscar chiocciola radio24.it, per continuare a documentarci se le banche vi stanno aggravando il costo fisso di gestione dei vostri conti e magari c'è scritto che è per il fondo di risoluzione oppure no. Ci torneremo in settimana e sabato, e intanto molti di voi hanno scritto e grazie, perché teniamo le vostre segnalazioni anche eventualmente poi per chi ci autorizza a farlo, per chiamarvi in trasmissione ovviamente per dirci cosa ne pensate. Alcuni di voi pensano di recedere dal conto, altri no, ma tutti vogliono sapere informazioni nel caso in cui ci fosse la quota di recupero del fondo di risoluzione, se si può anche impugnare oltre che andarsene. E, oggi vi ricordo è in corso, c'è una riunione al MEF con i rappresentanti delle primarie banche italiane, Unicredit, Intesa, UBI Banca, il ministro dell'economia Padoan e il governatore della Banca d'Italia Visco, in cui si parla proprio delle difficoltà della vendita delle quattro banche, quelle, le good bank, la parte buona di quelle risolte a novembre dell'anno scorso. È scaduto il termine imposto alla UE al 30 settembre, è stata bocciata la modalità con cui UBI si candidava a rilevarne 3 di 4 e non si sa come fare, perché questo aggrava l'esposizione del fondo di risoluzione, per il quale appunto si chiede a tutti i correntisti, secondo me illegittimo da parte di alcune banche, di sobbarcarsi l'onere che la banca paga per finanziare questo fondo. Di cosa parliamo oggi in trasmissione? Ve lo dico subito, della proposta avanzata per la seconda domenica di seguito ieri su Repubblica da Eugenio Scalfaro, il fondatore di Repubblica. Ve la ricordo e vi invito a telefonarci per dire cosa ne pensate all'800 24 0024 349 238 6666 per gli sms con le opinioni. In sintesi estrema, il fondatore di Repubblica dice: la crescita italiana, come si vede, tossicchia, c'è bisogno di una sferzata vera e importante, fin qui sono d'accordo. Quella che propone Eugenio Scalfari è una decontribuzione, cioè un abbattimento di circa il 30% del totale del cuneo contributivo, quindi la differenza tramite contributi sociali a carico delle imprese e dei lavoratori tra il lordo e il netto in busta, quasi il 30%, per un totale di 90 miliardi di euro. È una bella cifretta, per così dire. Sicuramente ci sarebbe un effetto da questa sferzata. Il problema è come coprirli questi 90 miliardi di euro. Eugenio Scalfari propone una soluzione. La soluzione è quella di, lui lo definisce testualmente, un modesto aggravio fiscale a carico dei redditi superiori a 120.000 euro lordi l'anno. Un modesto aggravio fiscale. Allora, noi per consentirvi di valutare meglio questa proposta faremo un po' di numeri. Io faccio un po' di numeri prima di introdurvi uno dei docenti di diritto tributario a cui ricorriamo abitualmente per sapere la sua opinione. Ma per capire meglio questa proposta bisogna fare una cosa che o per scarso spazio o per mancanza di volontà il fondatore di Repubblica ieri e domenica scorsa, la domenica precedente, non faceva. Perché se uno legge 90 miliardi, dice, e poi legge che è un modesto aggravio a carico di chi ha un reddito lordo superiore ai 120.000 euro, dice, beh, perché non ci abbiamo pensato prima? Allora, però, per capire questa proposta bisogna sobbarcarsi a un po' di numeri su qual è il gettito IRPEF italiano, chi lo paga distinto per classe di reddito, ecco, perché questo serve a capire meglio se si tratta davvero di una via percorribile, certo molto redistribuzionista, molto di sinistra, ma percorribile, oppure se i numeri ci dicono che è un po' azzardata, per così dire. Mi limito a dire questo. I numeri, allora, i numeri che vi faccio sono quelli elaborati a giugno di quest'anno sulla base dell'anno d'imposta 2015, cioè sulle dichiarazioni dei redditi complessivamente presentate dai contribuenti italiani relative ai redditi nel 2014. Ecco, dichiarazione dei redditi, lo ricordo, a fini IRPEF significa i modelli 770, unico e 730. Ecco, Nel 2014, quindi con la dichiarazione poi del 2015, gli italiani hanno dichiarato complessivamente redditi per 817,2 miliardi di euro. E su questi 817,2 miliardi di euro dichiarati hanno versato un IRPEF complessiva allo Stato di 167 miliardi e qualche cosa. Al netto, visto che bisogna poi fare il netto degli 80 euro disposti dal governo, ricordo che gli 80 euro sono andati a 11,2 milioni di contribuenti con redditi fino a 29.000 euro, questo ha comportato uno sgravio di circa 6 miliardi di euro sul totale dell'IRPEF, quindi passiamo da 167 a 161 miliardi complessivi. Ma chi ha pagato quanto? Perché vi ricordo che Scalfari dice dai 120.000 euro in su si tratta di incassare 90 miliardi di IRPEF in più sul totale di 167, che come vedete non è poco, perché significa una sberla in più sul totale dell'IRPEF versata ogni anno. Quindi intanto già rispetto al totale dell'IRPEF si capisce che non è modesto aggravio, è un aggravio iperconsistente. Ma vediamo chi ha pagato cosa, no? Allora, intanto ricordiamo 60 milioni e rotti di italiani, sono 40,7 milioni di contribuenti invece. Di questi 40,7 milioni di contribuenti, solo 30,7 milioni di contribuenti ha presentato una dichiarazione dei redditi. 30,7 milioni. Quindi, se facciamo già questo prima considerazione, se ne deduce che quasi la metà degli italiani non ha reddito, quindi è a carico di qualcuno. E va bene, ok. Dopodiché, se andiamo a vedere quelli che hanno un reddito zero IRPEF, cioè sotto la soglia di 7.500 euro, siamo già a 10 milioni su quei 30 milioni, fino a 7.500 euro. Ok? Siamo a col reddito negativo 700.000 contribuenti, da 0 a 7.500, 9.436.000. Ok? E quindi questi 10 li leviamo, chiaro? Perché da questi 0 IRPEF. Tra i 7.500 e i 15.000 euro di reddito annuo abbiamo 8 milioni e mezzo circa di contribuenti che pagano una IRPEF media circa di 600-601 euro. E tra i 15.000 e i 20.000 euro di reddito troviamo altri 6 milioni di contribuenti per circa 9 milioni e rotti di abitanti che pagano un'imposta media, qui inizia ad alzarsi, di 1.655 euro a testa. E quindi almeno da questo scaglione ci si inizia a pagare almeno il 90% della sanità che va pro capite, ma tutto il resto no, per essere chiari. Questo che cosa significa? Che sino a questa soglia, cioè fino ai 20.000 euro, ci sono già 18 milioni e 700 mila contribuenti, cioè il 46% del totale dei contribuenti. Di questi 18 milioni e 7, un terzo, 6 milioni e 8 sono pensionati, che dichiarano redditi da 0 a 15.000 euro. No? Quindi vuol dire 10 milioni non presentano la dichiarazione dei 40 milioni. Poi ce n'è il 45% del totale che vivono, dichiarano di vivere con un reddito medio mensile di poco superiore ai 600 euro lordi, quindi meno di quello di molti pensionati. Tenete conto che a questi 18,7 milioni di contribuenti corrispondono quasi 28 milioni di abitanti. Ok, andiamo invece alla parte alta della forbice per capire. Cioè sopra i 100.000 euro, Scalfari propone addirittura i 120.000, ma sopra i 100.000 euro, quindi tra i 100.000, i 200.000, 200.000, 300.000 e sopra i 300.000, ci sono in tutto su 40,7 milioni di contribuenti, in tutto 424.000 contribuenti. Questi 424.000 contribuenti, di cui 345.000 nella fascia tra 100 e 200.000 euro, 46.000 tra 200.000 e 300.000 e sopra i 300.000 ce ne sono solo 31.772, questi 424.000 contribuenti, poco più dell'1% del totale dei contribuenti pagani italiani, paga da solo il 17% dell'IRPEF, cioè paga da solo più di 27 miliardi sui 167 miliardi totali dell'IRPEF. Ed è a questo 1% dei contribuenti che paga già il 17% del totale del gettito IRPEF, mentre abbiamo visto quanti milioni di italiani, quasi il 45% totale dei contribuenti, paga pochissimo, e 10 milioni pagano zero, non presentano la dichiarazione, e altri 10 milioni sono sotto la no tax area pur presentandola. Ma questo 1% che paga il 17%, se ci aggiungiamo i 90 miliardi di cui parla Scalfari, noi avremmo che il gettito totale IRPEF passa da 167 a 257 miliardi, e di questi 257 miliardi l'1% dei contribuenti, mettiamo quelli sopra i 100.000, non sopra i 120.000, pagherebbe il 46%. Ecco, io mi fermo qua con i numeri, perché vi chiedo se il passaggio dal 17% totale dell'IRPEF, di questo 1% dei contribuenti sopra i 100.000 euro, che passa al 46%, secondo voi è da una parte un aumento modesto, dall'altro se è un aumento realizzabile, tollerabile, con che effetti? Poi lascio a voi ogni considerazione su che cosa ci dicano questa sclassificazione, declassificazione dei contribuenti per fascia di reddito e quanto davvero pagano, perché è ovvio che c'è da grattarsi la testa sul fatto che quasi metà degli italiani non ha reddito, e che sia solo l'1% quelli che ne hanno un reddito di superiore ai 100.000 euro lordi. Ci dice tanto, per così dire, ma questo le lascio a voi queste considerazioni. Io mi fermo qua e vi presento l'ospite per sapere da lui tutte le valutazioni del caso sulla realizzabilità e perseguibilità di questa proposta, la patrimoniale, che lo ricordo poi è quella voluta dalla CGIL, spesso ricordata dalla Camusso, per finanziare interventi di questo tipo. Il professor Dario Stevanato, che insegna diritto tributario a Trieste, grazie di essere con noi oggi pomeriggio. Buongiorno, buongiorno. Da dove vuole cominciare? Ma proviamo a fare un ragionamento sulla realizzabilità, perché i numeri li ha appena ricordati lei, non serve aggiungere molto. Il punto della proposta di Scalfari sta proprio nella, cioè punto, diciamo, se posso dire debole, è che non sembra aver fatto bene i conti, che qui non solo si sta parlando di addossare a circa l'1% dei contribuenti IRPEF, quindi 400.000 soggetti o giù di lì, un carico di 90 miliardi oltre ai 25-27 che già pagano. Quindi il punto non è, lui ha parlato di un incremento moderato di tassazione, che non so se è un eufemismo o non si rende conto dei numeri, ma non solo significherebbe portare l'1% a pagare quasi la metà del totale IRPEF, ma a non poterlo fare, perché non c'è base imponibile sufficiente. Perché se noi stimiamo che questo 1% di soggetti con redditi, diciamo, elevati sopra quella soglia già paga un IRPEF media che possiamo stimare non inferiore al 40% dato l'attuale struttura delle aliquote, e quindi una base imponibile che grava una base imponibile complessiva dichiarata da questi soggetti che può andare tra i 60 e i 70 mila euro o giù di lì, non si capisce come questi potrebbero, oltre ai 25-27 che già pagano, pagarne altre 90, cioè significherebbe ipotizzare un'aliquota del 200% rispetto al reddito IRPEF. Questo ovviamente è un'assurdità ed è l'unico senso che si riesce a dare all'idea di una patrimoniale, perché già sentire parlare di una patrimoniale con riferimento all'imposta sul reddito evidentemente manca qualche fondamentale. Allora o Scalfari sta bene quello di cui sta parlando, e allora sta ipotizzando una confisca per tutti i soggetti che hanno la fortuna o la sfortuna di dichiarare quei redditi, ma non solo una confisca, ma poi anche una diciamo così, un'ablazione patrimoniale, ammesso che questi abbiano patrimoni sufficienti per farvi fronte. Quindi o sta ipotizzando una cosa di questo tipo, oppure purtroppo occorre dire che non sa di cosa sta parlando. Questa è una prima valutazione. Questa è una prima valutazione, se ci fermiamo alla lettera di quello che diceva Scalfari, cioè che proponeva questo come un aumento di tassazione sui redditi. Invece io le faccio un'altra domanda. Ipotizziamo, poiché Scalfari è avanti con gli anni, ma non è affatto uno sprovveduto, questo va detto per rispetto nei suoi confronti. Ipotizziamo che lui abbia fatto questa soglia, l'esempio dei redditi, in realtà perché vuole una patrimoniale. La CGIL dice: noi la vogliamo una patrimoniale sui patrimoni, a prescindere dai redditi. Allora io le faccio la domanda, lei mi risponde dopo l'interruzione sul traffico. Se per chi pensa e propone a una patrimoniale di questa grandezza, di questo ordine di grandezza, ricordate che le imposte patrimoniali ci sono già nel nostro paese, abbiamo alzato quelle sulla casa, sia pur abbattendo quelle IMU prima casa, io non ero d'accordo, ma comunque le abbiamo alzate, abbiamo alzato le imposte patrimoniali sui risparmi, sulle gestioni previdenziali separate e così via. Ma lì c'è un margine, e secondo lei di che tipo, per chi propone da sinistra la super patrimoniale per accelerare lo sviluppo, in quel caso che cosa si può identificare come soglia tollerabile? La risposta tra un minuto. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornati in diretta. Abbiamo ricordato qualche numero per capire meglio questa proposta di Scalfari: 90 miliardi di abbattimento del cuneo fiscale da coprire tramite un modesto aumento di pressione fiscale per le leggi superiori ai 120 mila euro. Sui numeri dell'IRPEF, come vedete, non ci troviamo proprio per nulla, perché quell'1% sarebbero ancora meno se prendiamo i 120 mila euro e non i 100 mila di reddito lordo, non avrebbero la capienza per, se applicata all'imponibile della tassazione sui redditi, come testualmente diceva ieri Scalfa. Ma se invece volessimo fare una patrimoniale vera, dal punto di vista comparato degli altri ordinamenti, chi propone questo, a cosa può pensare e in che ordine di grandezza, secondo il professor Stevanato? È molto difficile, a mio avviso, ipotizzare oggi una patrimoniale generale di tipo ordinario. Immagino le patrimoniali sono di due tipi: quelle straordinarie, che servono a far fronte a un'esigenza, che ne so, una forte riduzione del debito in un colpo solo con un'imposta che si applica una tantum, oppure invece una patrimoniale con bassa aliquota ordinaria. Ecco, dicevo, c'è poco spazio perché intanto perché l'Italia tassa pesantemente i redditi, e quindi tassare il patrimonio risparmiato quando già a monte c'è una forte tassazione dei redditi non è esattamente una buona idea. Poi per la composizione del patrimonio degli italiani, in gran parte è investito in immobili, e gli immobili sono già tassati con delle patrimoniali immobiliari, e il valore di questi immobili si è negli ultimi tempi assai ridotto, quindi andare a incidere ulteriormente sugli immobili con una patrimoniale non mi sembra né sensato né nelle intenzioni dell'attuale governo, che anzi ha fatto un passo indietro sulla prima casa. Resta un po' di ricchezza finanziaria liquida, diciamo così, in titoli o depositi o titoli facilmente liquidabili, su cui esistono peraltro le varie imposte di bollo sui conti correnti e sui dossier titoli e così via. E poi rimane, se non ricordo male, siamo sui 3.500 miliardi di euro investiti in aziende, in società, in capitale di società. Qui siamo di fronte a una ricchezza illiquida su cui ci sono tanti interrogativi, sia di tipo valutativo che anche sul fatto che in molti casi occorrerebbe costringere soggetti che hanno questa ricchezza a smobilizzarne una parte. Però ripeto, io non è che sono pregiudizialmente contrario a una patrimoniale, dico solo che nell'attuale sistema di tassazione non c'è spazio. Allora, se nel momento in cui si abbassasse l'imposta sul reddito, la patrimoniale potrebbe avere una funzione di riequilibrio, anche perché un altro discorso che se ho ancora un attimo va fatto è che nella proposta di Scalfari, in tutte le proposte simili, si tende a identificare i soggetti dotati patrimonialmente, diciamo così, in chi ha redditi elevati IRPEF. Purtroppo però l'IRPEF è fortemente sottorappresentativo delle reali ricchezze degli italiani, perché l'IRPEF intanto da un punto di vista legale non copre tutte le tipologie di reddito, ma soltanto alcune, e principalmente i redditi di lavoro. Quindi tutti i redditi di capitale ne stanno fuori ormai anche i redditi di fonte immobiliare. Quindi parlare di identificare i redditi IRPEF con le ricchezze è un grave errore. E quindi, diciamo, occorrerebbe monitorare i patrimoni per quelli che essi sono, e fare un ragionamento su di quel tipo lì. Però ripeto, no, non mi sembra che con l'attuale pressione e con l'attuale tassazione dei redditi ci sia lo spazio. Ci sia lo spazio. Io infatti, a dire la verità, nel mio mondo ideale bisognerebbe innanzitutto riportare tutto in dichiarazione dei redditi, mentre quindi significa abbattere la pretesa dello Stato di tassare con aliquote diverse redditi realizzati da cespiti diversi, come fa invece lo Stato, che discrezionalmente dice da lavoro tot, da capitali tot, da immobiliare tot e così via. Io sarei per portare tutto dentro un unico cumulo e a quel punto, nella mia opinione, siccome siamo un paese iperpatrimonializzato, ma iperpatrimonializzato a favore dei vecchi e contro i giovani, perché questo ci dicono i dati di Banca Italia, ha senso, come no, alzare, cioè smobilizzare tanto patrimonio, una parte del patrimonio attraverso incentivo fiscale, che significa alzare le patrimoniali, solo in presenza di una forte detassazione dei redditi, perché quel patrimonio messo a reddito, ceduto per essere messo a reddito, diventi flusso, cioè reddito, soprattutto per chi ha meno reddito, bestialmente giovani rispetto agli over 65 nel nostro paese. Questa è la mia opinione, paese ideale, nessuno ragiona così, non lo avremo mai. Però io le chiedo di stare ancora un secondo lì, perché io vedo un mucchio di nostri ascoltatori dicono non si riconoscono, lo sapevo, nei numeri della piramide IRPEF che noi abbiamo detto, ma questa non è la fotografia del paese che io conosco. Sentiamo alcuni di loro. Cristiano da Verona. Cristiano, prego. Sì, a parte la battuta di che non mi ero reso conto di essere tra i più ricchi d'Italia e nella mia famiglia tra i contribuenti siamo in due più ricchi d'Italia, e mi sembra che il nostro tenore di vita, e questo ripeto è una battuta, non sia reale con quanto siano le dichiarazioni dei redditi degli altri contribuenti. Al di là di quello, io direi che forse bisognerebbe toccare più la spesa pubblica e il pubblico in generale, più che continuare ad andare a pescare da quelli che già sono abbastanza dissanguati, che arrivano da un periodo, tra l'altro, parlo degli autonomi soprattutto, dove abbiamo già dato. Guardi, io le do solo questa... Quindi, per cui, insomma, abbiamo già dato anche troppo, per cui... mi trovo veramente in disaccordo su queste cose che sembrano quasi elettorali più che di un economista, di una persona che capisce di economia reale. Guardi, io le do solo quest'altra cifra. Nel 2014, per essere coerente con quelle cifre lì che abbiamo ricordato all'inizio, lo Stato, se sommiamo quello che ha speso per pensioni, sanità e assistenza, ha speso 439 miliardi sugli oltre 800 di spesa pubblica. Per queste tre soli voci, no? Pensioni, sanità e assistenza, spesa sociale. Quei 439 miliardi corrispondono nel 2014 a un totale contributi sociali, sia quelli che servono la lira per pagare la sanità, sia quelli per le pensioni, eccetera, eccetera, di 172,5 miliardi. Già per il resto, quindi tra 172 e 439, per capirci, la differenza è già fatta con fiscalità generale, per capirci, perché poi mi dicono tutti che il welfare italiano è in equilibrio. No, è in equilibrio solo perché i contribuenti ogni anno ci aggiungono centinaia di miliardi. Tra 172 e 439, fatevi la differenza. E noi continuiamo a prepensionare in questa legge finanziaria, ma naturalmente poi a dirlo i sindacati mi picchiano. Cosa risponde il professor Stevanato ai tantissimi, guardi, e il 99% di chi ci sta scrivendo, l'1% dice la cosa di Scalfari non sta in piedi, ma il 99% dicono com'è possibile che metà degli italiani senza reddito e solo l'1% oltre i 100.000 euro di reddito lordo? Che risposta diamo? Questa è una impressione che hanno sempre tutti, no? C'è una discrasia tra la percezione che uno può avere della ricchezza degli italiani e quello che risulta dalle dichiarazioni. Beh, la spiegazione è facile, però da un lato si spiega in parte con l'evasione, dall'altro ricordo ancora la selettività dell'IRPEF, cioè molti pensano erroneamente che l'IRPEF sia un'imposta sul reddito complessivo. In effetti la legge dice questo, però il reddito non è affatto complessivo. Esatto. Solo alcune categorie ci rientrano. Quindi ci possono essere titolari di redditi di capitale che possono essere interessi o dividendi. Questo spiega no. Tra l'altro anche perché la percentuale così elevata sul totale IRPEF di lavoro dipendente e pensioni, di cui molti si scandalizzano, però deriva da come la legge la definisce l'IRPEF. E questa è la risposta di cui io ringrazio Dario Stevanato, anche se non convincerà il più dei nostri ascoltatori. Grazie al professor Stevanato, continuate su Radio 24, appuntamento con me Alessandro Mina domani mattina alle 8:20 in Attenti a Noi Due.